Buonasera, questa è un'altra puntata di Banda Armata dall'aula P2 occupata. Vai con la sigla. Razzinga! Razzinga! Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva coi pugni teologici. Razzinga, Razzinga, tuona, si scaglia dal sagrato contro il male. Se sei nemico prega, è già finita la chiesa, ma ti dice Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé. Non conosce la paura mezza italiana, che cos'è? Lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Razzinga, Razzinga, rosario atomico, Razzinga, lama del diavolo, Razzinga, doppio amen, forte, con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga. Fa da sé, non conosce la paura, le sa italiane che cos'è. Se hai bisogno puoi invocarlo, con la Bibbia apparirà. Razzinga, Razzinga, bombe gnostiche, Razzinga, luce divina, Razzinga, spada teologica, Razzinga, sermone atomico, Razzinga, pugno teologico, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, doppio amen, Razzinga, ora pro nobis, Razzinga, acqua santa, lama diabolica, doppio rosario. La nostra amata sigla dedicata a Ratzinger, Razzinga di Gnessi e di Francesco. Dunque, puntata di oggi, ancora una puntata di Banda Armata. Ricordiamo che stiamo trasmettendo dall'aula più occupata alla facoltà di ingegneria dell'Unical. Stiamo andando in diretta nella nostra web radio che è Fuori Onda Radio. Questa è Banda Armata e andremo in differita poi su Radio Ciroma 105.7 FM giovedì alle 16.30. Molti gli argomenti anche oggi, come al solito parleremo di università, ovviamente siamo praticamente qui per questo, parleremo di territorio, parleremo anche di alcune iniziative che si terranno in città. Cominciamo a parlare un po' di quello che è accaduto nell'università in questa settimana che ci ha separato dall'ultima puntata di Banda Armata. E il coordinamento degli studenti di ingegneria, che è nato nell'assemblea di qualche settimana fa, ha cominciato il suo lavoro sulla facoltà. Siamo entrati nelle aule con dei volantini, stiamo cominciando a strutturare un calendario di lezioni all'aperto per sensibilizzare sulla questione dei Gelmini. Dobbiamo dire che insomma, come ci aspettavamo, non è facile cercare di ricoinvolgere la facoltà in una mobilitazione. Il resto praticamente da due anni fa questa facoltà, anche grazie al lavoro certosino delle baronie accademiche è tornata completamente alla normalità, nonostante pendessero sull'università pubblica italiana 1,5 miliardi di tagli. In ogni caso ci sono degli studenti che si stanno muovendo, per una volta anche al di fuori dello stoico, mi verrebbe da dire, collettivo P2. Un'altra cosa importante sicuramente è quella che riguarda gli esami del 509. Ci eravamo lasciati con un consiglio di facoltà finito veramente in maniera, lo abbiamo definito ridicola, ma si potrebbe anche andare oltre con gli insulti, in quanto ricordiamo che l'ultimo consiglio di facoltà praticamente non ha deliberato nulla, dal momento che quei pochi docenti che erano rimasti alla fine della discussione che riguardava centinaia e centinaia di studenti hanno anche votato contrari a una proposta venuta da loro, concertata col preside e coi rappresentanti degli studenti. Una proposta che noi non abbiamo appoggiato, come abbiamo scritto e precisato attraverso il nostro sito. In ogni caso la facoltà ha votato contrario, dopodiché il consiglio di facoltà è stato sciolto. Abbiamo delle novità al riguardo. Sappiamo che le nostre proposte, che sono state poi girate a tutti quanti i membri del Consiglio di Facoltà da parte della Presidenza, sono state spiegate anche attraverso un documento integrativo, le nostre proposte sembra che siano state accettate dalla Presidenza. Bisogna attendere adesso a questo punto solo l'esito del Consiglio di Facoltà di domani, dove è importante che tutti gli studenti, domani, per chi ci sta sentendo in diretta da fuori onda radio, invece saprà già com'è andata, chi ci sta sentendo da Radio Ciroma. È importante comunque domani essere presenti, fare pressione al consiglio, a un consiglio di facoltà che in buona sostanza tra la nostra proposta e il suo assenso ha semplicemente evidentemente la svogliatezza da parte della classe docente di sostenere, di tenere degli esami per il 509. Noi ci rendiamo conto di chiedere uno sforzo alla facoltà, ma ci rendiamo conto anche che questa è la semplice conseguenza del fatto che nella nostra facoltà, così come anche in tutte le altre facoltà dove fra l'altro questa proposta è stata già accettata, esistono di fatto almeno due ordinamenti. Se il vecchio ordinamento, quello storico, ormai è agli sgoccioli, sono pochi gli studenti della nostra università, della nostra facoltà, che sono iscritti con il vecchissimo ordinamento, quello del 509 non è una realtà che può essere ignorata o marginalizzata, dal momento che si tratta di centinaia e centinaia di studenti. Ricordiamo che in poche settimane e con i nostri modesti mezzi di comunicazione abbiamo raccolto circa 500 firme. Siamo sicuri che l'ammontare degli studenti che subirebbero passivamente e in maniera veramente drammatica la sparizione delle sessioni di dicembre e di aprile, siamo sicuri che sono molti di più. Direi che quindi ribadiamo l'importanza di partecipare domani al Consiglio di Facoltà. Noi sicuramente ci saremo, come detto abbiamo presentato richiesta formale alla facoltà per quanto riguarda la nostra richiesta, con due proposte alternative e un documento integrativo. E diciamo usufruiamo di questa prima fascia di banda armata per affrontare questo problema ristretto alla nostra facoltà. A questo punto partirei con il primo pezzo musicale, che è un pezzo, diciamo, come sempre le nostre scalette sono piuttosto variegate, anche perché cercano di rispecchiare i gusti musicali di chi prepara le trasmissioni. È un pezzo che è stato recentemente rifatto da Giuliano De Palma, o Giuliano Palma? Palma, Giuliano Palma. Diciamo che a noi piace anche nella vecchia versione un po' sbarazzina degli Equipe 84. Questa è Tutta mia alla città, del 1969. No. Bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città, tutta mia la città, un deserto città. Questa notte un uomo piangerà, non lo verrai, fumo un'altra sigaretta e poi me ne andrò senza te. Porto con me un'immagine che non vedrò, tu che corri da me, da un'automobile che passa, qualcuno grida va a casa. È tutta mia la città, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà. Forse è meglio così, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà, tutta mia la città. Piangerà. Come detto da Flavio e già precedentemente, gli appuntamenti sono davvero serrati e intensi. Questa sarà una settimana tragica per le nostre meningi, ma noi cercheremo di farcele tutte. Il primo è domani mattina, c'è un corteo che si farà all'università tra studenti medi e studenti universitari. Poi ci saranno altre iniziative sempre che vedranno insieme studenti medi e studenti universitari, il 12 a Cosenza, no, il 12 all'università e il 13 a Cosenza molto probabilmente. Poi ci sarà un corteo che si farà il 17 novembre, che appunto vedrà la sintesi, diciamo, di questa unione che sta cercando di fare tra le due realtà, appunto quelle colpite da un lato delle manovre finanziarie, manovre di riforma, tra virgolette, fatte dal nostro governo, e l'altro appunto, che sono tutte e due, sia i liceali giù di lì, e anche la realtà universitaria. Come abbiamo detto, anche al liceo le condizioni non sono eccezionali. Io vorrei dire, diciamo, a Flavio di illustrare anche quali sono le questioni che stanno succedendo nei nostri licei, nelle nostre cose, perché parliamo spesso dell'università, ma anche dare una voce per quello che sta succedendo dalle parti cosentine, meno arcavacatesi, diciamo, è utile. Diciamo che possiamo promettere agli ascoltatori di Banda Armata di invitare qualche studente medio alla prossima trasmissione. Mi è venuta questa idea mentre parlavi. Magari uno che non sia uno di quelli, insomma, di quelli logorroici, no, che ci stanno, li abbiamo conosciuti in queste serate. Beh, quello che succede, diciamo, da un bel po', diciamo, da quando andavamo noi a scuola, non si parla granché di politica. Molto spesso le occupazioni, le autogestioni sono fatte più per così per divertimento che per effettiva coscienza e consapevolezza. In realtà devo dire che avendo fatto un piccolo giro dalle scuole occupate in autogestione qualche settimana fa, devo dire che il livello con felicità ho appreso il livello delle discussioni si sta alzando, per quanto chiaramente stiamo parlando comunque di contesti abbastanza, per fortuna direi, abbastanza frivoli. In ogni caso i problemi sono sia da un punto di vista nazionale, poi magari vedremo dopo nel dettaglio che cosa comporta un po' tutto quanto l'impianto Gelmini per le scuole medie e superiori, e anche prima le scuole medie, le scuole elementari. E ci sono anche dei problemi piuttosto gravi all'interno degli istituti della città di Cosenza. Abbiamo fatto un po' di giri, diciamo che i ragazzi non aspettavano altro per farci vedere tutti i problemi degli istituti. Ci stanno insomma tetti che quasi quasi vengono giù, laboratori che non esistono, aule fatiscenti, questo soprattutto negli istituti tecnici. Nei licei, per esempio, ci si lamenta di programmi di studio di programmi di studio praticamente folli, un po' all'ordinamento 509 mi verrebbe da dire, anche perché nel momento in cui si lamentavano in modo particolare di questo, nel momento in cui si perde una settimana per qualsiasi cosa, i professori pensano bene di fare l'intero programma magari in qualche giorno, anche perché così poi sono liberi di gestire un po' il proprio tempo in maniera più malleabile, ecco. Certo, non ci può essere modo migliore per capirne i problemi di partecipare a una delle assemblee che stiamo organizzando insieme a loro, sia a Cosenza che all'università, partecipare il 17 al corteo, o comunque sentire magari la settimana prossima la trasmissione di Banda Armata, dove speriamo che ci sarà qualcuno degli studenti medi. Gustavo. Niente, se non masto che... Questo è quanto, dopo questo breve collegamento alla mia destra, 10 centimetri dal mio corpo, vi lanciamo il prossimo pezzo, che sono i mitici Area, con il mitico Demetrio, l'elefante bianco. Corri fuori ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu, come piangere e chi può vedere il mondo torna senza pudore, e chi immagini santi stupidi, tutto lascia così com'è, vado avanti non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Thank you. scoprirà la realtà. Districca la regola che non ci funziona più, la spezza poi tutto con radicalità. Allora, dopo un inizio un po' così, un po' a braccio, Gustavo, no? Anche perché siamo stanchi di settimane di intenso lavoro e fra l'altro ogni tanto, dal momento che siamo in un'aula occupata dell'Università della Calabria, ma sempre all'università siamo, dovremmo anche studiare, direi, no? La cosa è chiaramente in secondo piano per quanto riguarda Banda Armata. Ricordiamo che stiamo trasmettendo su Fuori Onda Radio in diretta e su Radio Ciroma alle 16.30, 105.7 FM. Dunque, abbiamo una settimana, come abbiamo detto più e più volte, piena di impegni. Innanzitutto, proprio per questi impegni, sia nostri, sia del baffone di Anno Zero, Ruotolo, che è stato a quanto pare mandato... assieme a Berlusconi, ovviamente, in Veneto ci ha tirato il pacco. Esatto, insomma, Ruotolo è stato mandato alla redazione veramente per impegni professionali che rispettiamo in pieno in Veneto per la questione dell'alluvione. Noi ne abbiamo anche un bel po' di cose da fare, per cui quasi insomma, diciamo la verità, quasi ciao. La rimandiamo quasi. quasi la rimandiamo, per cui andiamo a vedere un po' quali sono questi impegni. Innanzitutto c'è rimandiamo, giusto. Cosa rimandiamo, c'è da dire? No, nel senso che avevamo programmato per il 12 l'iniziativa di Diario, appunto, di controinformazione sull'inchiesta. Ci sarebbero dovuti essere Iannacone, Ruotolo, il grandissimo Pepe Valdessarro, grande grinta. Però, appunto, per questa defiance di Ruotolo, onesta e comprensibile, più che comprensibile, dovuta, se vogliamo, siamo stati costretti a rimandare l'appuntamento, quindi saltiamo al prossimo, che sarà l'1 dicembre. Ovviamente avrete altre notizie. Esatto, tra l'altro non finiremo mai di ringraziare la disponibilità di Peppe Baldessarro, che insieme a Iannacone ha curato molte inchieste per la redazione di Riccardo, per le trasmissioni di Riccardo Iacona, redattore del Quotidiano e corrispondente della Repubblica. È un giornalista nostrano di Reggio Calabria, in realtà importante nel panorama della regione, e soprattutto molto disponibile, ci dà una mano, per cui sappiamo che quando riusciremo a rimandarla, insomma, lui ci darà una mano, come sta facendo anche ora. E salutiamo Peppe, che fra l'altro ci sta scrivendo sulla chat. Per cui, rimandato l'appuntamento di ieri, ci sono tante altre cose da fare. Facciamo il punto, per esempio, su Pianopoli, no? Pianopoli, che è la discarica dell'Ametino, dove sono stati girati i rifiuti di Terzigno e del Vesuviano. Ovviamente noi che siamo siamo una regione ospitale, la regione dell'accoglienza, piuttosto che accogliere, che so, visto che se ne parla ultimamente, i migranti di Rosarno, no, accogliamo. Certo, no, accogliamo i rifiuti di Terzigno. Qualcuno potrebbe dire meglio i rifiuti di Terzigno che i migranti di Rosarno, giustamente per il livello di cazzonaggine che c'è in Dio. Ho detto cazzonaggine? Sì, hai detto cazzonaggine, questo è un plauso a Flavio. Che... E questa è una questione di disinibizione e di avanguardia. No, bisogna dire che però comunque l'internazionalità c'è anche nei rifiuti di Terzigno, cioè, nel senso che comunque c'è anche un po' di estero nei rifiuti di Terzigno, non penso che siano tutti di Terzigno proprio, anche perché le grandi realtà industriali terzignesi, non lo so, se producono tutte queste scorie, quindi ci tocca. Esatto, effettivamente sì, si tratta dei rifiuti di Terzigno così quasi per definizione, ma in realtà non sono rifiuti di Terzigno. Per cui ricordiamo che la discarica, come abbiamo avuto modo anche di leggere così ghignando la scorsa puntata di Banda Armata, al momento non stanno arrivando camion perché a causa del maltempo il sindaco di Pianopoli ha inibito il passaggio dei camion. Allo stesso tempo, ancora prima dell'inibizione così della decisione del sindaco di Pianopoli, c'era stata la decisione del sindaco Gianni Speranza di Lamezia, che aveva inibito il passaggio ai mezzi pesanti che trasportavano i rifiuti di Terzigno, se non che qualche giorno dopo l'ordinanza del sindaco di Pianopoli, forse non tutti lo sappiamo anche in collettivo, il sindaco Gianni Speranza ha rilasciato una dichiarazione pesante. Si è dichiarato preoccupato per la chiusura della discarica di Pianopoli perché Lamezia, attenzione Gustavo, Lamezia rischiava di diventare come Napoli. Ottimo! Il feudo di Speranza ha bisogno di un... Ok, Fanta, la coerenza soprattutto di Sinistra e Libertà ci fa sempre insomma ben sperare. Allora, che cosa è successo però in tutto questo? La rete di difesa del territorio è stata a Pianopoli in occasione di una riunione tecnica tra sindaci, chiamata proprio dal sindaco di Pianopoli, una riunione tecnica che non è stata minimamente calcolata da buona parte dei sindaci del circondario, erano in tutto 3 sindaci, più qualche personaggio di quelli importanti c'erano in questo incontro tecnico. Italo Reale, per esempio. Italo Reale, insomma, è un po' il... forse esagero, ma è un po' il Giorgio Comerio dei rifiuti soliti urbani. Praticamente nella storia della Calabria ogni volta che c'è un problema, anzi un business rifiuti, spunta fuori Italo Reale. E lui è spuntato lì chiaramente come persona, come un consulente esperto. Nonché Doris Lomoro, esponente di livello altissimo da un punto di vista regionale del Partito Democratico. È stata di fatto una riunione tra esponenti del Partito Democratico, una riunione a porte chiuse. I cittadini di Pianopoli, insieme ai cittadini di Lamezia, insieme a una trentina di noi della rete di difesa territoriale, siamo stati costretti, devo dire neanche con troppo dispiacere, a stare fuori da questa riunione. Mentre loro parlavano abbiamo dato voce alle persone che erano lì, in tutto un centinaio. Ci sono chiaramente anche foto e video di questa iniziativa. Abbiamo detto alla gente che passava come stanno andando le cose, che cos'è Pianopoli, poi magari ne parliamo meglio dopo, visto che La cabina di regia, come sempre, la mannaia Peppone in cabina di regia, ci invita a tempi, diciamo così, parsimoniosi. Il prossimo pezzo dei Beatles lo presenta Gustavo, va. Ladies and gentlemen, back in the USSR for you now. Oh, in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R. Well, the delivery girls really knocked me out. The West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always on. Dobbiamo concludere su Pianopoli. Back in the USSR ha dato il via, insomma, al seguito delle discussioni in maniera abbastanza diretta. E la situazione è molto interessante. Ci stava dicendo Flavio, appunto, che poi hanno dato voce ai cittadini, eccetera. Quindi vediamo cosa è successo. Sono interessantissime queste cose e anche io sono interessatissimo, perché non capivo, non sapevo davvero un cazzo. Su questo ho detto cazzo. Vabbè, praticamente noi abbiamo dato ore, se è arrivato il buon vecchio crotonese col suo arnese, la specie di megafono da auto, diciamo. Abbiamo fatto un comizio, scherzi a parte, si sono espresse le associazioni, ci siamo espressi noi dei vari comitati, dopodiché, dopo questa fantomatica riunione di tecnici, come l'ha chiamato insomma il sindaco, questa riunione tra tecnici, persone esperte ed esponenti del territorio, in realtà, ripeto, era una riunione del PD tra qualche faccendiere, qualche sindaco e qualche onorevole, e siamo entrati insieme a tutta la gente nel consiglio comunale. Abbiamo fatto un'assemblea dove abbiamo deciso insomma il da farsi, perché l'ordinanza del sindaco scadrà a breve e c'è bisogno comunque di sollevare il problema della discarica di Pianopoli e in generale del sistema dei rifiuti regionale, meridionale e italiano. Pianopoli è di fatto un centro nevralgico per quanto riguarda il sistema dei rifiuti calabrese. Giusto per fare un esempio che mi riguarda, diciamo, da vicino, noi a Rossano abbiamo una discarica, la discarica di Bucita, che è stata già precedentemente sequestrata per mancanza enorme di sicurezza, per disastri ambientali. Ci sono delle inchieste, delle cause in tribunale. Per questo, in questo momento, il commissario, l'ormai eterno commissario ai rifiuti regionale della Calabria, che in questo momento è Scopelliti, sta ordinando il sovrabbanco. Cosa vuol dire il sovrabbanco della discarica di Bucita? Significa che sulla superficie, diciamo, atta al deposito di rifiuti è finito lo spazio, per cui mettiamo i rifiuti sopra gli altri rifiuti, un sovrabbanco facciamo per aumentare il volume di rifiuti. Che cosa è successo? È successo che a un certo punto si è paventata l'idea di chiudere la discarica di Pianopoli, perché ci sono dei problemi, delle irregolarità. C'è un movimento lì a Pianopoli che è da tempo che denuncia, c'è anche un interessantissimo dossier in internet, è da tempo che denuncia insomma le condizioni della discarica del territorio intorno a Pianopoli. Che cosa fa il nostro sindaco, che è salito anche in carica grazie alla battaglia contro il carbone nel 2005 e contro lo scempio di Bucita? Cosa fa? Scrive al commissario chiedendo spiegazioni per la chiusura della discarica di Pianopoli. Questo sempre per quello spirito di solidarietà che ci distingue, per capire insomma che se chiude Pianopoli tutte le discariche, tutti quelli che stanno aspettando ossigeno, diciamo i territori che stanno aspettando ossigeno da un sistema di rifiuti scellerato che non fa altro che aumentare sempre esponenzialmente il problema, tutti quelli che stanno aspettando ossigeno si ritroverebbero strangolati e si ritroverebbero a non poter rimandare il problema. Chiaramente un problema che non è rimandabile in eterno, lo abbiamo visto a Napoli, lo abbiamo visto nel Vesuvio, lo stiamo vedendo anche adesso. Per cui questa è la discarica di Pianopoli. Che cosa abbiamo deciso in questa assemblea? Abbiamo deciso che faremo una manifestazione unitaria di tutti i movimenti che si stanno muovendo sia nell'Ametino sia nel resto della regione, che si stanno occupando della questione. Vediamo un bel po' di sigle, dove chiaramente non poteva mancare la rete di difesa territoriale Franco Nisticò. Ci sono collettivi di Lamezia, per esempio, oltre ovviamente al collettivo antidiscarica di Pianopoli, c'è il collettivo Oltre alla Lamezia, c'è la casella legalità della cultura di Lamezia, Cittadinanza Attiva, Comitato Giovanile Lametino, Comitato Lametino Acqua Pubblica, una battaglia insomma unitaria. Ci vedremo alle 11 domenica 14 proprio a Pianopoli in corso Roma. Siamo convinti che dalla regione saremo tanti, speriamo che l'atmosfera di Pianopoli, che c'è pazza sinceramente un po' strana, Gustavo, è un'atmosfera da sindaco che c'è ormai da 30 anni, insomma, quell'atmosfera lì, non so tu che cosa ne pensi di questo tipo di atmosfera. Anche questo, diciamo, è uno dei nostri grandissimi, le caratteristiche dei nostri paesi, cioè è una cosa fantastica, non so da quale altra parte succede, però in Calabria è, diciamo, il meridione in generale, ancora ci sono questi piccoli feudi, per questo io mi ricordavo. Anche è capitato, se non ricordo male, un mio amico mi parlava di un paese vicino a Bisignano proprio, che ha avuto un altro sindaco trentennale, poi dopo il trentennio è stato ceduto al figlio, poi chissà se avrà un erede maschio, riuscirà a dare la dote del terreno. E questa è una cosa interessante che deve essere studiata anche dal punto di vista sociologico, secondo me. Detta l'ennesima cavolata, io vi lascerei con un grandissimo pezzo dei Judas Priest. No. Ecco, il Peppone mi corregge, con un grandissimo pezzo dei Metallica, Welcome Home Sanitarium, che è dedicato appunto al sanatorio di Girifalco, che noi salutiamo da lontano, dalle colline arcavacate. Volevo aggiungere soltanto grande pezzo. Se l'hai giocata fino all'ultimo con lascia, se l'hai giocata fino all'ultimo con Master of Puppets, ma visto che sappiamo che c'è la chitarrella, grande pezzo. Confermo. Thank you. skyheads are in their hands. A violent use brings violent plans. Keep him tight, it makes him well. He's getting better, can't you tell? No more can they keep us in. Listen, damn it, we will win. They see it's right, they see it well, but they think this saves us from our. Questi erano i Metallica. Peppone mi stava quasi cogliendo in flagrante con le mani nel piatto di buon cibo che mi trovo davanti agli occhi. Dunque, quindi, insomma, abbiamo parlato un po' di questa faccenda di Pianopoli. Il sindaco, fra l'altro, Cuda, che abbiamo conosciuto in quell'occasione, prima di andare via, ci ha anche deliziato con qualche diciamo acrobazia dialettica. Volevo approfittarne per salutare qualche schina liscia che ci sappiamo che ci ascolta, insomma, abbiamo saputo di questi ascolti su Fuori Onda Raggio. Lo sapevi, dove ci sono anche schine lisce che ci ascoltano anche mezze manipole e renali smanicati, direi. Esatto, insomma, lo studentato di ingegneria è variegato, l'ingegneria è anche bella per questo, per cui ci sono anche i rinali smanicati. Chiaramente con il massimo rispetto per chi ci ascolta, sia su Fuori Onda Radio, dove stiamo andando in diretta, sia su Radio Ciroma 105.7 FM. Dunque, quindi ci vediamo tutti quanti il 14 a Pianopoli. Riprendiamo un po' il filo del discorso studentesco. Abbiamo detto che si sta cercando di far nascere un coordinamento studenti medi universitari, l'hai detto tu, Gustavo, no? Che cosa stiamo organizzando? Che cosa stiamo organizzando con gli studenti medi? Ah, chi è questo? Va bene. Niente, si sta iniziando a fare qualcosa che vada al di là, ovviamente, di sigle e strutture di appartenenza, per cercare di coinvolgere più gente possibile. Quello che il percorso è iniziato con un paio di assemblee fatte in istituti vari, e quindi la discussione è partita orizzontalmente, senza nessuna tentativo di colonizzazione universitaria, appunto, di queste realtà. Si sta cercando di coinvolgere più gente possibile a presto. Oggi e sicuramente domani ci confronteremo anche con le altre realtà universitarie per capire il da farsi, appunto, in vista della manifestazione del 17 novembre. La proposta che galleggia e che è uscita dall'ultima assemblea è appunto quella di uno spezzone unitario che non badi a appartenenze, appunto, a strutture come si diceva prima, ma uno spezzone unitario che gridi forte la voce degli studenti medi e universitari contro i tagli, contro la legge 133 e contro la serie di proto-pseudo riforme che si sono susseguite dopo il 2008, che ovviamente non hanno fatto altro che porre delle pezze, delle schifose toppe inutili, ovviamente, alla enorme falla che ha aperto questo squarcio e non taglio ai fondi di università, licei, ma anche istituti inferiori come le scuole elementari. Tra l'altro voglio precisare che la proposta di uno spezzone, anzi di fatto un corteo con un'apertura unitaria senza sigle, è venuta proprio dagli studenti delle scuole superiori di Cosenza. Noi non potevamo che accettarlo di buon grado, dal momento che un po' di tempo che andiamo dicendo in giro che sarebbe l'ora di liberarci un attimino di alcuni schemi che sono venuti a nascere dal movimento di 2 anni fa in poi. Sappiamo che non è facile sia all'università che dagli studenti medi. Noi ci proviamo, stiamo cominciando a scrivere un po' di cose. Tra le cose che hanno scritto gli studenti medi molto interessanti sono, tra le cose che non vanno, chiaramente le classi da 30 studenti, il finanziamento alle scuole private, la scuola delle 26 ore in meno all'anno. Questa è una cosa un po' particolare, gli studenti medi ci tengono a mantenere quella quantità di ore, una cosa che noi, insomma, molto spesso abbiamo discusso in senso contrario all'università, no? Noi vorremmo meno ore, soprattutto l'ordinamento 509 che non ci ha lasciato lo spazio. Abbiamo parlato con loro, comunque loro sono dell'avviso che non bisogna tagliare le 26 ore perché non serve, semmai bisogna cercare di aumentare la qualità. Vabbè, riguardo a questo, diciamo, non voglio fare il palloso della situazione, ma comunque penso sia naturale che il processo pedagogico passi da un completo e continuo studio e attenzione nei confronti dell'individuo al livello più alto, insomma, del percorso di formazione, in cui l'individuo è completamente libero. Quindi libero, ovviamente, nei limiti che conosciamo. Quindi è anche giusto che ancora lo studente liceale senta la necessità di essere seguito nel suo percorso di studi, perché non ha ancora quella struttura che assolutamente vediamo che è assente anche negli studenti universitari, però che gli studenti universitari comunque dovrebbero aver acquisito durante il percorso, diciamo, superiore. Però effettivamente nel liceo ancora penso ci sia necessità di un... Però questo, diciamo, è un discorso che si potrebbe approfondire più in là. Però non è del tutto insensata questa posizione, nel senso c'era, non per fare il colto, ma Bakunin per esempio diceva il percorso, la formazione dell'individuo deve passare dalla massima segregazione nel momento della nascita, segregazione nel senso della massima cura, la massima attenzione sull'individuo, alla fine questo processo formativo appunto dell'individuo, dell'uomo, non del lavoratore o del precario di turno, ma dell'uomo, deve portare nell'ultimo giorno di formazione, appunto, che potremmo identificare nell'ultimo giorno di università, per esempio, alla completa libertà dai programmi e dei professori, eccetera. Nel senso che è un processo che dovrebbe portare a questo, quindi ci sta anche che gli studenti medi rivendichino la loro didattica massiccia. Beh sì, comunque è un discorso molto interessante che abbiamo avuto il piacere di affrontare in una piccola assemblea che sicuramente riaffronteremo. Questo Bakunin che torna oggi, no? È già la seconda volta che in aula c'è sì, si domina Bakunin, mente brillante, anarchico della scuola migliore. In ogni caso, altre cose interessanti che denunciano gli studenti medi: la scuola degli edifici fatiscenti, quello di cui un po' parlavamo prima. Gustavo nel frattempo mangia. La scuola purtroppo è l'ora di Banda Armata va in diretta dalle 9:30 in poi, solitamente arriviamo senza cena, conseguentemente a quest'ora insomma fa un po' di fame. La scuola degli edifici fatiscenti senza il rispetto delle norme di sicurezza, la scuola delle attrezzature da terzo mondo, un po' quello che dicevamo prima, anche se sicuramente espressi in modo più incisivo. Stiamo fra l'altro leggendo una bozza di volantino che abbiamo preparato insieme agli studenti medi. Una cosa che ci è piaciuta particolarmente, no, sta, è questa: si scrive colpiamo i baroni, colpiamo gli sprechi, si legge colpiamo l'istruzione pubblica perché vi vogliamo ignoranti, vi vogliamo sudditi, vi vogliamo schiavi senza prospettive. Noi siamo la scuola, noi siamo l'università. Voi, ministri e portaborse, baroni e speculatori, siete gli sprechi. Questa grande ovazione. Grande. Questa è una cosa che ci è piaciuta particolarmente. Arriva la mannaia, per cui a questo punto c'è il Peppe che ha scelto un pezzaccio, il Peppe della cabina di regia che non parla quasi mai. È giunto il momento, visto che né io né Gustavo conosciamo il pezzo. Peppe, che pezzo è questo? Dai, Peppe, su. La regia automatica, come ci ricordava Pierluigi di Radio Cidoma. Comunque questo è un pezzo dei MAB, si chiama Black. Allora, quindi ricapitolando le prossime tappe di questo nascente coordinamento tra studenti medi e universitari, che speriamo raccolga tutte le realtà di movimento e anche soprattutto gli studenti che non fanno parte di realtà di movimento, e il 12 novembre probabilmente faremo un'assemblea pubblica, no, la più occupata, sul diritto allo studio e sui tagli all'istruzione pubblica alle ore 15. Il 13 novembre si replicherà in piazza 11 settembre tutte e due le iniziative insieme agli studenti, chiaramente insieme organizzate da noi, dagli studenti medi, quelle che abbiamo chiamato due assemblee verso il 17 novembre. Il 17 novembre alle 9 in Piazza Loreto, corteo studentesco unitario fra studenti universitari e studenti medi di Cosenza, delle scuole di Cosenza, in realtà non saranno soltanto di Cosenza, per una serie di rivendicazioni, Gustavo, no? Per una serie di rivendicazioni che sono anche scritte nella bozza di volantino e che io andrò a leggere in maniera abbastanza fedele per evitare che ci siano disguidi tecnici e o politici. Per il corteo studentesco si unirà e unirà le realtà studentesche sia medie che universitarie per un sistema formativo pubblico, libero, universale, per formare individui coscienti, non macchine da lavoro precario, per difendere i diritti di tutti, non i privilegi di pochi, per il ritiro dei tagli all'istruzione e delle controriforme. Perché scuole e università le difendiamo e le cambiamo noi. Studenti delle scuole e dell'Università di Cosenza, questo è un appello abbastanza deciso e sincero. Il concetto che si legge dietro questo appello è appunto la necessità di porre un punto a quella che è la retrocessione che sta vedendo l'università investita. Appunto completamente da questo concetto. Ci sono attacchi fatti unilateralmente da tutte le parti e gli studenti vogliono porre un argine a questa distruzione. Quindi l'importante è unirsi appunto contro quella che è la fonte di questa degenerazione o questa accelerazione della degenerazione universitaria, ovvero sia i tagli che, come dicevo prima, hanno aperto quella voragine che è incolmabile, è intappezzabile da nessun punto di vista. Io sfido qualsiasi tappezziere di Cosenza a tappezzare questa falla. Io personalmente non penso ce ne sia uno in grado di farlo, con tutto il rispetto per i tappezzieri di Cosenza, sia ben chiaro, una classe onorata è riverita dal sottoscritto. Non so se Flavio la pensa allo stesso modo sui tappezzieri. Beh, sì, i tappezzieri sì, chiaramente quelli nati fra il Trionto e il Crati sono un'altra cosa, ma insomma sono sempre tappezzieri. Una precisazione: probabilmente l'assemblea a piazza 11 settembre il 13 sarà alle 18, per cui questo è l'appuntamento, ci vediamo già il 12, il 13 e poi tutti quanti in piazza il 17 novembre. Da domani cominceremo a volantinare, a tappezzare città, università di questo volantino. Tornando un po' alle questioni del territorio, stiamo rimbalzando così come delle palline da flipper. Che cosa c'è stato ancora questa settimana? Un'iniziativa importante a Saline Ioniche. Vi è stata la costituzione del comitato contro la costruzione della centrale a carbone a Saline Ioniche. Aspetta un attimo, perché non ho capito il concetto. Cioè si sta costruendo, cioè si vuole a Saline, si vuole costruire, cioè non è una conversione. Cioè spiegalo bene il concetto, perché cioè, è interessante. Cioè, tu costruisci una cosa nuova e costruisci una centrale a carbone. Cioè, no, sottolinea il concetto e farlo capire, perché Vorrei. Esatto, effettivamente rispetto a quanto proposto per Rossano, dove una centrale termoelettrica esiste ed è a olio combustibile, quindi abbastanza inquinante, insomma si tratta di un impianto di 4 caldaie dei 35 anni fa, per cui sicuramente non fa bene, non è un toccasana, esattamente come il carbone. Che cosa c'è a Saline? A Saline c'è una vecchia area industriale, l'area della liquichimica, che è dismessa da svariati anni, da più di un decennio. C'è quest'area, quindi, con questa vecchia ciminiera. Se voi andate in giro un po' su Google e mettete Saline Ioniche, la prima foto è del mare, la seconda è della ciminiera della Liquichimica. Quindi c'è questa grande area un po' che ricorda, anche se in misura leggermente più piccola, l'area industriale di Crotone, che dismessa non è a disposizione del territorio. La SEI, che è una quelli che io sinceramente chiamo un'azienda che specula sull'energia, ha proposto al territorio una centrale a carbone, se non vado errato, da 800 megawatt. Una centrale chiaramente a carbone pulito, mica carbone sporco, carbone pulito. Scusa, per capire, quella di Rossano di quanti megawatt era? No. Quella di Rossano è da 1800, cioè attualmente vi è una centrale da 2200 megawatt. Quella centrale si smantella, se ne fa una da 1800 megawatt. Sul territorio di quella vecchia, ma di fatto non ci resta. In verità si parla di riconversione, ma è una demolizione, una ricostruzione. Certo, a Saline non c'è una centrale elettrica, c'è, come detto, questi vecchi impianti. Ovviamente c'è sempre il ricatto sui territori. No, noi non, tanto la bonifica non ve la fa nessuno, per cui almeno fateci andare noi, che ci facciamo una bella centrale, vi diamo 10 posti di lavoro e 100 malati nel reparto oncologia, solitamente. Magari dicessero 10 posti di lavoro, perché noi sappiamo che i numeri che vengono propagandati sono diversi, o mi sbaglio? Beh, certo, chiaramente il leitmotiv di questi agenti che arrivano a proporre gli impianti industriali è quello di dare centinaia, se non migliaia, di posti di lavoro. Arrivano, insomma, promettendo mari e monti, poi alla fine si scopre che i lavori di costruzione, di demolizione, le fanno ditte specializzate a loro convenzionate, quindi gente che arriva da fuori, fa il proprio lavoro e va via. I posti di lavoro per questo tipo di impianti ormai sono pochissimi, quelli che sicuramente avrebbero molto lavoro in più, ma non credo che questo faccia piacere alla gente di Saline né di Rossano, sono i medici del reparto oncologia. Questo lo abbiamo visto in tutti i posti dove è stato proposto il carbone, da Brindisi a Vado Ligure, anche la nuova centrale di Civitavecchia, quella che è di nuova generazione, quella che, per intenderci, l'Enel nel suo progetto ha presentato come la centrale più tecnologica del mondo e che dopo qualche mese di funzionamento ha visto esplodere una tubatura che veicolava ammoniaca con la morte di un operaio. Questo è per lei l'impianto tecnologico migliore al mondo. Si stava parlando di carbone pulito, no? Definisci bene la cosa, carbone pulito, no? Sostanzialmente una minchiata. Cioè. Beh, chiaramente il carbone pulito è un ossimoro. Il carbone è il combustibile più inquinante attualmente che viene proposto fra le centrali di nuova costruzione. Chiaramente non si sta facendo un paragone fra il carbone oggi e magari un impianto ad olio pesante di 30 anni fa. Tra quelli attualmente in proposizione è quello probabilmente più inquinante. Il carbone pulito che cosa ha di differente rispetto a vecchi impianti a carbone? Quindi stiamo parlando di quegli impianti che devastano completamente un territorio in maniera visibile. Semplicemente ci sono alcune tecniche per diminuire le emissioni inquinanti. Una di quelle, per esempio, quella proposta a Rossano è quella del prelavaggio, no? Un po' come se fosse una lavatrice. Dal fossile vengono tolti alcune delle sostanze che bruciando andrebbero nell'aria e diventerebbero tossiche. La cosa che non si dice è che queste sostanze dovrebbero essere poi depositate da qualche parte e restano tossiche. Questa è una cosa. Se si vedono tutte le proposte, da quella di Porto Tollo a quella di Civitavecchia a quella di Rossano, da nessuna parte sta scritto dove vanno a finire queste cose. Poi, per esempio, sappiamo che i residui della centrale a carbone di Brindisi, il Corpo Forestale dello Stato ha scoperto un anno fa, se non mi sbaglio, che venivano grazie alla criminalità organizzata, venivano smaltiti in una cava sabbiosa di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria. Così è una cosa che mi è venuta in mente parlando di siti di stoccaggio. A Saline si propone un'altra cosa, però una cosa veramente molto interessante, si chiama sequestro. Mannaia, a che punto siamo? Abbiamo tempo? Vado lì? Niente, abbiamo già finito? Parlo dopo del sequestro allora, e parliamo dopo di come è andata. È andata benissimo l'iniziativa di Saline. Questo è un pezzo che mi piace particolarmente. Stai fermo, Peppe. Questo è un pezzo di uno dei gruppi che mi piace in più della storia, che piace di più della storia del rock. Sono i Judas Priest, questa è Painkiller. Questa in particolare la dedico alla schiena liscia di cui sopra. Oh, Painkiller, mamma che pezzo ragazzi, veramente fantastico. Comunque, torniamo a parlare di saline ioniche. Qual è questa tecnica che si vuole utilizzare a Signore? Che è quella del sequestro, non è l'anonima sarda, ma è questa invenzione su cui fra l'altro il governo americano diciamo circa 5-6 anni fa ha investito parecchio, o forse anche un decennio, nel progetto Futurgen. In che cosa consiste? Si tratta di un progetto per limitare le emissioni di anidride carbonica. Come noi sappiamo, l'anidride carbonica è una delle cause dei cambiamenti climatici, quantomeno potenzialmente una delle cause che i miei amici tecnici mi fanno sempre notare, che se è vero che l'anidride carbonica certamente non fa bene a tutto il pianeta, è anche vero che il collegamento in particolare con i cambiamenti climatici non è esattamente univoco, non è ancora esattamente un principio scientifico riconosciuto. In ogni caso, una cosa che è sicuramente riconosciuta è che l'anidride carbonica non fa bene al nostro pianeta, non fa bene soprattutto agli esseri viventi che respirano ossigeno, e sappiamo che ci sono delle leggi, dei protocolli abbastanza importanti, il protocollo di Kyoto, la strategia 20-20-20 della comunità europea, che ne limitano insomma le emissioni nel tempo. Si tratta in realtà di protocolli che non hanno potere esecutivo nei confronti dei paesi che non li rispettano, si tratta di intese così geopolitiche, cose scritte nero su bianco su un foglio di carta. In ogni caso, qual è l'obiettivo di questa tecnica? Quella di permettere di bruciare carbone senza uscire fuori dal seminato dell'anidride carbonica, dai limiti delle emissioni di anidride carbonica. Allora, che cosa si fa? Al posto di farlo uscire dalle ciminiere, l'anidride carbonica, attraverso dei contenitori speciali la si blocca, la si chiude in questi contenitori, dopodiché la mettiamo sottoterra. Ottimo! Io sono qua a sottolineare i concetti fondamentali e mi sembra che questo sia un concetto fondamentale. Diciamo che ricorda un po' il progetto dell'ODM, no? Che voleva fare con i rifiuti tossici, insomma. Qui non si tratta di rifiuti tossici da mettere sotto la superficie terrestre nel mare. Qui si tratta di anidride carbonica, la tecnica ce la ricorda. In ogni caso, questa è una tecnica ancora del tutto sperimentale, che non ha nessuna garanzia da un punto di vista scientifico e tecnico, tant'è che, anzi, è probabile che, oltre a non dare nessuna garanzia, perché poi l'anidride carbonica non sta sicuramente, certamente, a lungo sottoterra, non risolve il problema, semplicemente lo rimanda di qualche anno, ma oltretutto c'è il sospetto che questo provochi, soprattutto in zone sismiche, dei problemi, quando l'anidride carbonica funge da lubrificante fra le placche telluriche. In ogni caso, dal momento che esistono delle tecnologie pulite, delle tecnologie ecocompatibili, soprattutto dal momento che la Calabria non ha sicuramente bisogno di ulteriori centrali, dal momento che abbiamo già un fabbisogno soddisfatto, anzi produciamo il doppio dell'energia che consumiamo, siamo già devastati da elettrodotti, il famoso elettrodotto per esempio Laino Rizziconi, che oltre a far male a tutto l'ecosistema che attraversa, è stato la causa per cui si sono tranciate intere foreste per il passaggio di questo elettrodotto. È un costo in più, perché un elettrodotto significa costi di costruzione, costi di manutenzione e costi di dispersione, dal momento che noi produciamo energia che viene consumata in Veneto, che viene consumata in Lombardia. Per cui è una scelta da un punto di vista tecnico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale, sanitario, politico, decisamente scellerata. Di questo se ne sono accorti gli abitanti di Saline Ioniche e di tutto il territorio, tant'è che sabato 6, proprio a Saline Ioniche, abbiamo partecipato a un'assemblea veramente numerosissima. C'era una palestra, un centro sportivo sostanzialmente pieno, in ogni ordine di posto, c'era gente in piedi, c'erano associazioni, ma c'erano i cittadini di Saline, del territorio, che si sono espressi in maniera compatta contro la costruzione di questo scempio. E si tratta di una centrale che tra l'altro ha già avuto un celere, un solerte assenso da parte del Ministero dell'Ambiente, che deve esprimere, in questi casi deve esprimere una valutazione di impatto ambientale. Vi è una commissione apposita, la commissione VIA appunto si chiama, che ha già dato il suo assenso. Chiaramente gli enti locali si sono espressi in maniera contraria. In buona sostanza sabato è cominciata una lotta anche a Saline Ioniche, si è costituito questo comitato contro la costruzione della centrale a carbone. È una battaglia che noi pensiamo di poter vincere. Ci siamo stati noi, diciamo, come Rete Difesa del Territorio, come Comitato No Carbone di Rossano, abbiamo dato il nostro contributo. E non sarà sicuramente l'ultima volta che andremo a Saline, in quanto questa, le ragioni del carbone sono delle ragioni così deboli che sinceramente pensiamo di avere il dovere di combattere, anche di vincere in questo caso questa battaglia. Non è l'unica battaglia, purtroppo, da un punto di vista della speculazione energetica sul territorio, no Gustavo? Vabbè, ce ne sono tante. Dall'altra parte basta ricordare che la Calabria era una delle maggiori produttrici ed esportatrici di energia idroelettrica, per esempio. Guarda caso, queste centrali, che in comuni come quello di Cotronei, nel Crotonese, eccetera, facevano dei livelli occupazionali di 400 unità, eccetera, ad oggi sono ridotte all'osso e si stanno smantellando appunto in favore di queste dinamiche, che ovviamente non sono per il bene della popolazione, non sono per il futuro del pianeta, ma sono per il bene di pochi e il futuro di pochi. Il prossimo pezzo è di un maestro, se vogliamo, un maestro, come direi io, senza che nessuno si incazzi, e non penso che Enzo Avitabile lo faccia. Enzo Avitabile e i Bottari, Canta Palestina, direttamente da Napoli, dalla regia Peppe Lange. Grazie. Come soava d'este, e come son a fumare sti finestre, come son a fumare sti finestre in chius. E canta, canta, canta, canta con tambur, e canta, canta, canta, canta Palestina, canta con la speranza, e che speranza cam, risperata non muore. Giura Betlem, come son fuse giura Betlem, come son fuse giur. Io sono la luna mesca negolur, o sono la luna mesca negolur, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta con tambur, e canta, canta, canta, canta Palestina, canta con la speranza, e che speranza cambia, risperato non muore. We'll be right back. questo è un momento che aspettavo dalla prima puntata di Banda Armata. Ricordiamo che stiamo trasmettendo dall'aula P2 occupata alla facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria. Andiamo in diretta su Fuori Onda Radio, ascoltabile sul sito p2occupata.noblogs.org. Andiamo alle 16.30 in differita su Radio Ciroma 105.7 FM, Radio Ciroma che ringraziamo per lo spazio autogestito che ci permette di utilizzare. E questo è un momento che aspettavo da tanto, perché dovete sapere che effettivamente è una cosa che mi ha ricordato adesso Gustavo. Qui c'è una netta divisione di classe tra, diciamo, quelli che una volta erano i comizianti, noi i manovalanti. In questo caso io e Gustavo, Pierpaolo, Regina, a volte siamo stati i comizianti. Qui c'è anche la manovalanza, che è Peppone in cabina di regia, che volevo ringraziare, per il suo lavoro costante. Senza di lui praticamente la radio non va, non c'è, noi possiamo parlare ma tanto non ci sente nessuno. Per cui volevo ringraziare Peppone, che, diciamo, non è molto avvezzo alla parola, ma dà il suo contributo imprescindibile alla trasmissione, a questa nostra piccola, questo nostro piccolo esperimento comunicativo. Dunque, impiegando questi due minuti in maniera piuttosto preziosa, avevamo altre cose da dire, purtroppo siamo quasi in chiusura per i tempi che stringono, così come proprio Peppone Mannaia ci impone. Abbiamo un po' di cose di cui parlare. Innanzitutto c'è la questione di Catanzaro, di quello che è successo a Catanzaro. L'abbiamo detto, magari Gustavo vuoi... Quello che è successo a Catanzaro in questi giorni è semplicemente il culmine di una situazione che, parlando con i compagni catanzaresi, è quotidiana, una tensione che si vive da sempre sostanzialmente, e che vede da un lato una parte che tenta di dare spazio sociale a delle dinamiche politiche che noi ben conosciamo ed apprezziamo, come quelle realtà quali il Riscossa di Catanzaro, che ultimamente si è trovato partecipe di molte battaglie che ha curato ed ha seguito in primo soggetto, in prima persona, non so come dire. Dall'altra parte ci sono delle componenti che vivono di affari e traffici di collusione, anche non solo con i livelli istituzionali di estrema destra, ma anche con i limiti della legalità e oltre, e che con loro fanno affari, eccetera. Quello che si è verificato l'altro giorno a Catanzaro è stato un episodio che è proprio di quella cultura, appunto, e delle cultura quasi di faida delle realtà di destra, di clan, esattamente. Si stava presentando un libro di alcuni compagni anarchici siciliani nella sede, appunto, del Riscossa, del centro sociale, una rivista, mi corregge Flavio. Ci sono stati ripetuti attacchi, whatsappugli, qualche spintone con, appunto, le realtà che fanno sostanzialmente sponda e si aggirano attorno alla sigla di AP. Quello che è successo dopo la prima respinta, perché comunque i camerata cercavano comunque di entrare nel Riscossa per bloccare quello che era un momento di aggregazione sincero e pulito, si sono ritirati e poi sono tornati, appunto, in squadra, come sono abituati a fare, aspettando che un compagno si isolasse e l'hanno accoltellato. Questo è quanto. Una cosa che effettivamente, viste le dinamiche e la gravità della prognosi, si parla di 10 giorni di prognosi, di 30 giorni di prognosi addirittura, ricorda momenti ben più aspri e duri di una trentina di anni fa, anzi ormai 40, degli anni 70, diciamo, calabresi, durissimi anni 70 calabresi. Quello che si sta cercando di costruire insieme appunto a tutti i compagni di Catanzaro è una manifestazione che veda la partecipazione attiva di componenti regionali, ma non solo. Ci sono ovviamente molte difficoltà, la tensione in città è alta, addirittura si parlava, diceva, ci raccontavano all'assemblea tenutasi al polifunzionale poco tempo fa, ci hanno raccontato anche che mentre si stava vegliando l'amico in ospedale, c'erano le ronde dei camerata che giravano sotto l'ospedale, che addirittura dopo, a seguito di quello che era successo, come se non bastasse, un altro compagno è stato pestato. Queste sono situazioni che ovviamente danno una scossa alle nostre coscienze, ma che non ci lasciano, non ci devono stupire, perché siamo coscienti che queste realtà trovano appoggio e sponda anche dalle parti istituzionali. Riguardo a questo c'è anche un curioso aneddoto da parte di quanto è successo a livello legale subito dopo diciamo l'accaduto, e questo lo voglio far raccontare a Flavio, nel senso il fatto della falcetta, della cosa, ricordi? So. Come no? Beh, oltre il danno, la beffa, dal momento che quando sono arrivate le forze dell'ordine sul posto dell'accoltellamento, chiaramente gli autori dell'atto di violenza erano già andati via. Che cosa hanno fatto così le forze dell'ordine? Hanno ben pensato di perquisire il luogo dove si teneva quell'iniziativa e perquisire le persone che lo stavano evidentemente presidiando, trovando una falce come quelle che sono a decine nei nostri garage, insieme a martelli, picconi, zappe, insomma, a seconda del posto dove si trova il garage. Soprattutto zappe, mi fanno notare. E per questo alcuni esponenti del collettivo Discorso sono stati, oltre ad aver subito quello che è un tentato omicidio, sono stati costretti a stare fino alle 8 del mattino, tutta la notte, in questura a rispondere alle domande delle forze dell'ordine. Ci sarà a breve una manifestazione a Catanzaro dove cercheremo di andare numerosi, dove soprattutto cercheremo di stimolare il territorio a rigettare quello che è un cancro culturale e storico della nostra nazione, che è il fascismo. E in particolare città come Lamezia e Catanzaro ne sono appunto particolarmente affette. Non sarà in realtà questo sabato la manifestazione, c'è bisogno di più tempo evidentemente per organizzarlo. Comunque, dall'esterno così sembra che la città stia rispondendo bene, nel senso ci sono state adesioni piuttosto larghe, dalla Camera del Lavoro fino ai lavoratori di Fonmedia, associazioni di ogni tipo, anche per non far sentire isolati, insomma, i membri di questo collettivo. Chiaramente aggiorneremo sulle condizioni di chi è stato colpito da questo vigliacco attentato e anche sulle iniziative da intraprendere. Un'altra piccola pillola prima di chiudere. Giovedì sappiamo, lo abbiamo saputo sia telefonicamente che dai microfoni di appunti di sopravvivenza, lì sotto la sede di Radio Ciroma si terrà una prima riunione del Comitato Uniti contro la Crisi. È un comitato cui siamo stati invitati come collettivo. Si tratta di un comitato che intende preparare lo sciopero generale di cui si parlava all'assemblea del 17. Noi chiaramente come realtà come realtà di movimento che ha spinto, fra l'altro, per lo sciopero generale, o meglio, che intende spingere per lo sciopero generale, ma per uno sciopero generale vero che blocchi tutto quanto il paese, saremo presenti, seppure non abbiamo in realtà una posizione netta e definita, come per esempio Radio Ciroma stesso, altri tipi di compagini sul reddito, quantomeno sulle forme di reddito diretto. In ogni caso ci confronteremo e sicuramente avremo modo di costruire insieme, unitariamente, momenti di discussione e di lotta per preparare quello che finalmente deve essere in Italia un serio sciopero generale, un blocco dell'intero paese. Andiamo giù con l'ultimo pezzo prima della chiusura e dei ringraziamenti. Qual è questo pezzo, Peppe? Abbiamo Faber. Ah, questo è un pezzo. Fermalo. Non lo fermi? Ah, non è partito, perfetto. Questo è un pezzo che non è un caso che sia stato scelto, è una storia sbagliata. Un singolo di Fabrizio De André, dedicato a Pierpaolo Pasolini, di cui ricorreva l'anniversario della morte il 2 novembre, morì il 2 novembre 1975 in delle condizioni, diciamo, piuttosto controverse. De André scrisse questo pezzo per Paolo Pasolini, volevamo sentirlo, appunto. Un bacio a Pasolini ed un applauso ad Anna Magnani, anche un'altra grandissima donna che ha lavorato con lui spesso e volentieri. Sì, si tessevano le lodi di Anna Magnani poco fa. Questo è Fabrizio De André, una storia sbagliata per Paolo Pasolini. È una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo le ha scolpite. È una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata. Notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata. una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Quanto ti spiace, non ci chiedere più come andare, tanto lo sai, che è una storia sbagliata, tanto lo sai, che è una storia sbagliata. Perfetto, molto rapidamente cerchiamo di chiudere questa puntata. C'è un ultimo piccolo argomento che affronteremo chiaramente molto velocemente, che è quello della manifestazione del 4 dicembre a Cosenza sull'acqua e sui beni comuni. L'organizzazione della manifestazione sta andando avanti, ancora non è chiaro se questa manifestazione la terremo di pomeriggio o di mattina. In ogni caso all'università abbiamo deciso di fare dei banchetti in preparazione dei banchetti informativi in preparazione della manifestazione, probabilmente dalla settimana dopo il 17 in poi. Ricordiamo che stiamo trasmettendo l'aula P2 occupata alla facoltà di ingegneria dell'università della Calabria. Ricordiamo un po' gli appuntamenti che abbiamo elencato, le scadenze. Domani, o meglio ieri, perché ci sta ascoltando su Radio Ciroma 105.7 FM, ci sarà il consiglio di facoltà della facoltà di ingegneria, dove si deciderà di fatto del destino delle sessioni d'esame degli studenti 509. Invitiamo tutti gli studenti interessati a questa cosa a farsi trovare alle 15.30 davanti all'aula di S3. Il coordinamento degli studenti di ingegneria continua a organizzare, stiamo organizzando delle lezioni in piazza, anche se ancora non abbiamo un calendario. Comunque siamo passati nelle aule e passeremo anche la settimana prossima nelle aule per cercare di sensibilizzare, seppure, ripetiamo, non è facile, la facoltà. Il coordinamento, ci stiamo coordinando anche insieme alle altre realtà, insieme agli studenti medi, per organizzare il corteo del 17 novembre, che è la giornata internazionale dello studente, chiaramente declinata per le problematiche italiane anche del nostro territorio. Abbiamo già tre appuntamenti, che sono il 12, un'assemblea qui in aula P2 occupata sul diritto allo studio e il sapere. Stessa cosa il 13 in piazza 11 settembre, probabilmente alle ore 18, organizzata sempre da noi dagli studenti medi, e poi il 17 alle 9 in piazza Loreto, il corteo degli studenti. La nostra proposta, speriamo che venga accolta da tutte le realtà, è quello di uno spezzone unico, unitario, senza sigle, che rappresenti le istanze degli studenti medi e degli studenti universitari che studiano a Cosenza. Abbiamo parlato anche di Pianopoli, ricordiamo che il 14 ci sarà una manifestazione proprio a Pianopoli per il problema della discarica e dei rifiuti. Abbiamo parlato di antifascismo, abbiamo parlato della situazione di Catanzaro. A breve si saprà quando si organizzerà una manifestazione, sia in solidarietà del compagno che è stato accoltellato, sia insomma per dare una scossa al territorio del catanzarese contro il cancro del fascismo. abbiamo parlato dello sciopero generale del Comitato Uniti contro la crisi. Vi salutiamo, vi lasciamo con l'ultimo pezzo che è My Generation dei Who. Ricordiamo che andremo di nuovo in diretta su Fuori Onda Radio e martedì prossimo sempre alle 9:30, sempre sul sito p2occupata.noblogs.org. Ricordiamo che ci potete ascoltare anche su Radio Ciroma alle 16:30 di giovedì, 105.7 FM. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, salutiamo anche le schiene lisce, i rinali smanicati che sappiamo ci stanno ascoltando. Questa è Banda Armata, vogliamo tutto, buonanotte. Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. My generation, what we all get off.